Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, ci siamo, è tempo di occuparci della nostra salute, abbiamo Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, già attivo il nostro numero verde 824 0024. Adesso localizzate bene il vostro ombelico, appoggiateci sopra la mano, leggermente aperta, e se non è particolarmente piccola dovreste arrivare a sfiorare lo sterno. Bene, oggi tutti i nostri discorsi e le nostre domande si concentrano su questa parte della nostra pancia perché vogliamo parlare dello stomaco che, diciamocelo, si lamenta spesso. Fitte dolorose, crampi, acidità, bruciore, senso di oppressione. A volte basta davvero poco, un colpo di freddo, un pasto un po' pesante, ma anche un appuntamento importante, un periodo particolarmente stressante e impegnativo, ed ecco che lui va un po' in crisi. Perché, diciamocelo, è un organo delicato che risente delle nostre abitudini di vita, ma che interpreta e somatizza molte delle tensioni che proviamo a livello conscio ed inconscio. Per questo oggi parleremo di lui insieme al professor Meroni, che è in studio con me. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Che è direttore della struttura complessa di endoscopia all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. E in studio con me abbiamo anche il dottor Paolo Marzorati, che è medico psicoterapeuta. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Dottor Marzorati, nel preparare la puntata io mi sono resa conto di quante volte nei nostri discorsi, nei nostri modi di dire, tiriamo in ballo lo stomaco. Una persona antipatica ci sta sullo stomaco. O si dice un pugno nello stomaco quando viviamo una cosa particolarmente violenta, impattante. Oppure una persona che ha il pelo sullo stomaco è una persona che in qualche modo non ha rispetto per nessuno, insomma un po' viscidina. Allora, insomma, i modi di dire dimostrano quindi, ma questo me lo dirà lei, magari una mia ipotesi, che in qualche modo sappiamo che tra stomaco ed emozioni c'è una relazione piuttosto stretta, è così? In effetti è così, c'è un legame profondo a livello emotivo, e le metafore che lei citava indicano bene, in modo figurato, queste potenti emozioni, che in questo caso sono legate al subire, al sopportare, al mandare giù, all'inghiottire. Emozioni che, riferendoci in particolarmente a quest'organo, noi possiamo simbolicamente riportare alla capacità di accogliere e di trasformare, fare proprio in senso lato il mondo esterno, quindi che significano contatti relazionali, persone, ambienti e lo stesso cibo che è la materia organica. Certo. Arriva. Quindi è una relazione con il mondo che noi introduciamo, e proprio nello stomaco questo mondo viene trasformato, elaborato, digerito esattamente, e una volta che questo mondo è stato portato dentro, solo quando passa allo stomaco diventa parte di noi. Quindi lo stomaco è proprio un momento di transito fondamentale in cui la trasformazione biochimica degli alimenti corrisponde simbolicamente anche a una trasformazione delle emozioni, a un rimescolamento dei pensieri, dei sentimenti, e lì si decide se vengono portati dentro oppure anche buttati fuori attraverso poi modalità, certo, sintomatiche particolari. Allora, se volete quindi approfittare del dottor Marzorati per questa lettura un po' emotiva, psicosomatica dei vostri disturbi di stomaco, chiamateci all'800 24 0024, ma col professor Meroni invece parleremo di clinica. Professore, tra l'altro, come il mal di testa, anche il mal di stomaco è uno dei disturbi più diffusi e al tempo stesso quello che si presta al fai da te. Assolutamente sì, quante volte capita a ognuno di noi di avere un po' di bruciorino, un disturbo vago, una cattiva digestione. Ora, può capitare a tutti, e quindi è ragionevole che quella volta ogni tanto che succede, l'automedicazione ragionevole trovi posto. Se il disturbo si presenta più spesso o assume caratteristiche particolari, è meglio non trascurare questo campanello d'allarme. Allora, noi proviamo a raccogliere, come facciamo d'abitudine, non sempre, ma quando l'argomento si presta, alcune informazioni. Proprio cerchiamo di capire che cosa intendiamo quando diciamo: dottore, ho male allo stomaco. Spesso non si dice al dottore, si dice alla propria moglie, al proprio farmacista, al collega di lavoro. Sentiamo. Per te il mal di stomaco è il bruciore che avverti all'imboccatura dello stomaco, l'acidità che dopo mangiato dallo stomaco risale verso l'esofago, la sensazione di un peso che schiacciandoti ti procura dolore, il dolore improvviso e profondo come una ferita di spada, il dolore che dalla bocca dello stomaco si irradia a mo' di sbarra a destra e a sinistra, il crampo che dallo stomaco arriva alla schiena. Insomma, tantissimi dolori, tipi di dolori diversi, naturalmente dobbiamo imparare a descriverli bene, ma anche a dire altre informazioni, ad esempio quando, quanto tempo dura e quando si manifesta. Professore, ho detto bene? Assolutamente sì, perché sono tutti indizi importanti. Siamo degli investigatori e quindi ogni indizio non può essere trascurato. Allora, 800 24 00 24, io proverei già subito insieme a lei, professor Meroni, a capire perché è importante il momento in cui si manifesta il nostro dolore. Se a stomaco pieno o a stomaco vuoto, al mattino o alla sera, quando siamo coricati o quando siamo in piedi. Certo, per quanto riguarda la posizione coricati in piedi, ci sono situazioni che iniziano vagamente come mal di stomaco, ma poi che possono risalire, come si diceva nella scheda. Pensiamo ai problemi di reflusso gastroesofageo, quindi già l'ortostatismo, troppo difficile il parolone, lo stare in piedi, lo stare sdraiati, è una situazione che già ci mette sulla strada giusta. Così come il momento della giornata, la secrezione, cioè la produzione che noi abbiamo di acido, ha dei ritmi nel corso della giornata che aumentano o diminuiscono. I pasti sicuramente rappresentano uno stimolo per questa secrezione acida. E allora capire se un dolore, un bruciore insorge nel momento in cui c'è la massima secrezione acida può essere già un indizio, così come il fatto che passi quando viene tamponato da cibo. O un dolore molto forte dopo il pasto potrebbe anche essere una colica, ad esempio una colica biliare, che simula un mal di stomaco perché la zona anatomica più o meno è la stessa, ma ha tutta un'altra origine. Invece, dottor Marzorati, ci sono persone che somatizzano più di altre, è indubbio, no? E ce lo diciamo anche tra di noi, insomma è un periodo particolarmente stressante, somatizzo. Lei riesce a darci una lettura simile a quella del professor Meroni? Quindi ci sono dei momenti, delle emozioni, delle situazioni che si fanno sentire più di altre a livello del nostro stomaco, o alcune persone lo sentono più di altre? Ma allora, in genere alcune persone sentono più di altre, soprattutto i momenti stressanti e le situazioni conflittuali, e quindi quando un conflitto soprattutto è molto importante e costringe ad affrontare situazioni vitali che sono un adattamento difficile per la propria natura, indigeste dovremmo dire, diventano indigeste. Quindi per esempio il gastritico è una persona che tendenzialmente ha un conflitto forte tra una dimensione di accettazione che è molto accogliente e una parte di sé aggressiva che non esprime in modo sufficientemente importante. Ecco, questa aggressività si manifesta, diciamo così, con quel bruciore gastrico. Uno dei sintomi tipici della gastrite è un bruciore. Quindi una sorta di fuoco interiore, di carica aggressiva che rimane lì e che però dal punto di vista inconscio si manifesta attraverso il disturbo somatico incanalato nel sintomo gastrico. E quindi lo stomaco parla della sofferenza, parla del disagio, del dolore che la persona consciamente allontana da sé. Certo. E questo il nostro corpo ce lo ributta in qualche modo. Professor Meroni, mi sembra interessante questa doppia lettura, ma quando una persona arriva da voi, gli fate anche una domanda molto diretta? Sta vivendo un periodo di stress particolare o non ci pensate? Certo, stomaco e colon sono organi dove spesso si somatizza, qui non vorrei essere bacchettato, però è fondamentale inquadrare il paziente, e questo scaturisce soltanto da un dialogo, da un colloquio sufficientemente approfondito. La medicina moderna purtroppo in certi momenti che è un errore grossissimo questo. Quindi anche noi come pazienti, tra virgolette, dobbiamo anche educare il medico facendogli presente quale parte se stiamo attraversando un momento particolarmente difficile, speriamo di incontrare un medico attento che non ci dica vabbè, non importa, però questi sono gli esami da fare. Andiamo ad Alessandria, c'è Edda. Buongiorno Edda. Buongiorno a voi. Edda, come sta il suo stomaco? Insomma, a momenti bene, a momenti male. In che senso? Dunque, io sono stata operata circa 5 anni fa per un'esofagite con reflusso gastrofageo. Avevo anche un'ernia iatale e mi hanno fatto una Nissen. Però sì, ho molti meno dolori, ho molti meno sintomatologia, però ho sempre mal di schiena che è stato il primo sintomo, cioè il dolore viene dietro, sì. E soprattutto io ho grossi problemi la notte perché non riesco a dormire, russo in un modo pazzesco che nessuno vuol più dormire con me. Beh, questo guardi, meglio così, ha letto tutto per lei. Tutto sommato non tutto il male viene per nuocere, secondo me è una specie di protezione che mettiamo in atto a partire da una certa età. Professor Meroni. È una storia tipica quella che ha raccontato la signora, almeno fino al momento dell'intervento chirurgico. Signora, lei negli ultimi 5 anni poi ha fatto controlli endoscopici, ha visto se la situazione era sotto controllo? Scusi, la sento malissimo. Si è fatto dei controlli dopo la sua operazione? Sì, non molti. Comunque continuo a prendere sempre l'omeprazolo, vorrei sapere se lo devo prendere tutta la vita. Lo scopo dell'intervento, francamente, sarebbe quello di permettere al paziente di respirare un pochino, cioè non essere più sotto terapia. Evidentemente ritorni un pochino a parlarne con il chirurgo che l'ha operata per vedere se l'esito dell'intervento è stato ottimale oppure se c'è ancora qualcosina da ritoccare. Siamo tornati, adesso facciamo il punto sull'influenza A, siamo in piena psicosi, i casi di contagio aumentano, il pronto soccorso vanno in tilt e sembra che le rassicurazioni che arrivano dalle fonti istituzionali cadano nel vuoto, i dubbi si moltiplicano, la paura corre veloce, quasi più dello stesso virus, qualcosa sembra non aver funzionato e c'è chi parla di virus mediatico. In linea con noi abbiamo la dottoressa Stefania Salmaso, direttore del Centro di Epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità, buongiorno. Buongiorno. E bentornata. Dottoressa Salmaso, in piena pandemia ormai non ci sono più dubbi, anche se il viceministro Fazio rassicura che è più leggera dell'influenza di stagione. Certo che quando tra le vittime ci sono i bambini il coinvolgimento emotivo è maggiore, questo si sa. Questo è vero, però di fatto le notizie sono entrambe vere, ossia siamo in piena pandemia, nel senso che i numeri sono abbastanza elevati, la settimana scorsa, adesso dopodomani avremo i dati della settimana più recente, ma abbiamo visto già 500.000 casi in una settimana, però è anche vero che a fronte di questa maggiore circolazione che era implicita proprio nella pandemia, dobbiamo comunque tenere presente che il quadro clinico delle sindromi influenzali dell'influenza che stiamo registrando nella stragrande maggioranza dei casi è di tipo lieve, quindi non dà complicanze. Certo che quando si va sui grandi numeri, su persone che possono avere invece fattori di rischio importanti, si possono registrare anche alcuni esiti fatali, ma anche questo purtroppo era stato già preannunciato. Professoressa, si parla di virus mediatico. Sì, in qualche modo diciamo che ci sono state una serie di informazioni, commenti sulla stampa, sui media, un po' che sono assolutamente contrastanti, con l'unico risultato di alzare il livello di ansia in chi è spettatore di tutto questo. Quando si era stata preannunciata la pandemia, fin da maggio, giugno, si era detto che tutta questa allarme questi annunci di una ondata di malattia che stava per arrivare erano sovradimensionati, che in realtà la pandemia non esisteva, ma era tutto magari frutto dell'eccessivo allarmismo in sedi nemmeno tanto chiare, e questo non è vero perché la pandemia è arrivata puntualmente come ce l'aspettavamo. Poi quando si parla delle contromisure da prendere, anche lì ci sono una serie di informazioni distorte che vengono veicolate alla popolazione, che di fatto si trova privata della possibilità di scelta serena su quello che invece gli viene offerto. Allora, spesso le raccomandazioni, gli inviti alla calma, non intasare il pronto soccorso cadono nel vuoto, i numeri li vediamo, ma se dovessimo chiudere, come dobbiamo fare, questa nostra breve parentesi sull'influenza, oggi, il messaggio di oggi, proviamo ogni giorno a mandare un messaggio molto chiaro, rischiando di essere banali perché se ne parla talmente ogni giorno, ne leggiamo ogni giorno che tutto è già stato detto, certo, ma certo, magari, certo. Professoressa Salmaso, questa è la volta buona. Allora, proviamo a fare un messaggio chiaro. Primo, il rischio per ognuno di noi di prendersi l'influenza è elevato perché sta circolando nel paese. L'influenza è per lo più però di tipo lieve, quindi non c'è nessuna preoccupazione, se non in casi molto particolari, di eventi assolutamente indesiderati, quindi di non essere troppo ansiosi da questo punto di vista. Secondo, le contromisure che ci vengono offerte, abbiamo una vaccinazione che è sicura ed efficace. dolce, che però proprio per questo non è offerta comunque a tutta la popolazione, ma per proteggere chi ha maggior rischio. Quindi coloro che ricevono l'offerta di vaccinarsi la valutino con la massima serenità. Grazie professoressa Salmaso, buona giornata. Altrettanto grazie. E noi torniamo ad occuparci del nostro stomaco. Che cosa vi fa stare male? Che cosa vi sta sullo stomaco? 800 24 0024. Potrebbe essere un pasto troppo abbondante, professor Meroni, ma anche dell'altro, anche le nostre abitudini quotidiane in qualche modo possono nuocere al nostro stomachino. Assolutamente sì, ci sono delle abitudini voluttuarie, in parte oramai sono bagaglio culturale di tutti, no? Si dice l'alcol, il fumo, il caffè, ed è vero, talvolta ci sono anche delle interazioni pericolose. Ora, l'alcol, per esempio, per dirne una, in piccole quantità fa addirittura bene allo stomaco, perché un bicchiere e mezzo di vino, soprattutto se rosso, contiene alcune sostanze, tra cui le catechine, che hanno un ruolo protettivo nei confronti dello stomaco. Ma in dose maggiore l'alcol si sa che ha un'azione lesiva sulla mucosa dello stomaco, stimola la secrezione gastrica con vari meccanismi, alcuni certo, diretti e altri indiretti, ma quello che è pericoloso si è visto è l'interazione. Allora, se nei forti bevitori un rischio di sanguinamento evidentemente legato a ulcere, a lesioni della mucosa gastrica, un rischio di sanguinamento è di 3 volte superiore a quello che ha la popolazione in generale, quando la persona assume cronicamente alcol e in più farmaci antinfiammatori a basso dosaggio, pensiamo, non si fanno nomi, ma l'acido acetilsalicilico che viene utilizzato per fluidificare il sangue. Infatti uno dice, tutti quei farmaci mi faranno bucare lo stomaco. E in questo caso il rischio emorragico è aumentato anche di 7 volte, quindi bisogna stare sempre molto attenti alle interazioni tra alcol e farmaci, questo è uno dei classici esempi e lo stomaco ne soffre. Silvio ci chiama da Roma, buongiorno Silvio. Buongiorno a voi. Lei qua ha una bellissima occasione, dire per radio che cosa le sta sullo stomaco. Sono tante le cose che mi stanno sullo stomaco. Ecco. Io ho 21 anni e sono un ragazzo molto ansioso. Diciamo che da circa 3 anni soffro di reflusso gastroesofageo. Sì. E da 2 anni soffro di attacchi di panico. Inizialmente non mi è stato diagnosticato il fatto che il reflusso gastroesofageo fosse, diciamo, in concomitanza con gli attacchi di panico. E oggi mi hanno detto che è così. Sì. Però mi è stato detto dallo psicologo che comunque non è una persona che non è un medico, ecco. Certo, vede che torniamo, è importante che le varie figure si parlino, Silvia ce lo sta dimostrando, cioè me lo dice uno psicologo, ma uno psicologo non è un medico, giustamente, no? Tranne nel caso del dottor Marzorati, che è sia l'uno che l'altro, quindi Silvio è stato fortunato perché prende 2 piccioni con una fava, ma spesso comunque il paziente, la persona rimane un po' confusa dal messaggio che gli arriva dallo psicologo e da quello che arriva dal medico. L'ideale sarebbe conversare insieme, no, con le due figure che si occupano del paziente. Dottor Marzorati, che sì, cosa possiamo dire? Una stretta collaborazione sarebbe auspicabile sempre, sia sul versante più clinico che psicologico, questo sì. Ma Silvio... Silvio, ovviamente, dalle poche cose che mi dice, posso solo supporre alcune situazioni. Se gli è stato detto che questa esofagite è legata a un disturbo grave d'ansia con attacchi di panico, che in genere segnala dal punto di vista somatico un momento molto difficile dell'esistenza in cui forse dobbiamo cambiare qualcosa di grosso della nostra vita, perché quello che stiamo facendo si allontana dal nostro modo di essere profondo. E forse ha a che fare molto con l'espressione di sé, con l'aggressività. Mi viene da pensare questo nel caso di Silvio. Perché l'esofagite è un reflusso secrezione acida gastrica che torna su in esofago, quindi una sensazione molto violenta, molto forte, lo porta su alla coscienza, questa idea del bruciore, quindi di un'aggressività che ha bisogno di esprimersi in modo molto forte, che forse è molto repressa. Professor Meroni. È molto interessante, io la vedo dal punto di vista più clinico. Sicuramente mi preoccupa che questo ragazzo, perché ha 21 anni, veramente un ragazzo, possa soffrire cronicamente di un reflusso, quindi quale che sia la causa non perdere di vista le conseguenze. Un'esofagite da reflusso a 20 anni nel corso del tempo può portare, se non adeguatamente curata, anche a dei problemi tipo l'esofago di Barrett, è uno dei tanti, se ne parla tanto, oramai lo si legge dappertutto. è una conseguenza del reflusso cronico, quindi che Silvio stia attento, si faccia curare. Ecco, intraprenda un percorso, ma tante volte, non come nel caso di Silvio, ma noi siamo soliti gestire il nostro bruciore, l'acidità di stomaco un po' da soli. E d'altra parte, professor Meroni, non è che si può andare sempre dal medico, quindi certo, cerchiamo di tamponare con la dieta o utilizzando dei farmaci. Stupendo, il concetto del tamponare è il limite fino al quale possiamo spingerci quando saltuariamente non soffriamo di qualche bruciore. Si assumono delle sostanze che tamponano, il rimedio può essere naturale, il piccolo bruciorino si tampona con un po' di pane, si tampona con del bicarbonato di sodio, molto banalmente, ma ci sono delle sostanze, degli antiacidi, che sono al primo livello di complessità di farmaco, che scesi nello stomaco con un meccanismo da contatto tamponano semplicemente l'acidità che si trova in stomaco. Ricordiamoci di interrogarci se uno ha dei disturbi e sta assumendo farmaci che potenzialmente danneggiano lo stomaco, tipicamente farmaci analgesici, farmaci antinfiammatori, soprattutto alcuni farmaci antinfiammatori ad azione molto spiccata, come per esempio il naprosene, il piroxicam, questi sono i nomi delle molecole, che sicuramente fanno più male di un paracetamolo, di un ibuprofene. Quindi stiamo noi prendendo farmaci che possono danneggiare lo stomaco, oppure altri farmaci che si sa essere irritanti, il ferro che si assume per bocca in tante situazioni di anemia, è un farmaco che deve essere assunto a stomaco pieno perché maggiore la probabilità che irriti la mucosa gastrica. Ecco, ci siamo tornati insieme con Anita che ci chiama da Firenze. Anita, buongiorno. Buongiorno, io volevo sapere, siccome ho fatto la gastroscopia e mi hanno trovato l'esofago distorto, e io ho fatto anche 30 applicazioni di radioterapia, poiché mi viene un crampo alla bocca dello stomaco che mi gira dietro la schiena, volevo sapere se il tutto è collegato. Grazie Anita. Professor Meroni. Dunque, cara signora Anita, sicuramente il dolore nella sede in cui lo riferisce lei, un dolore magari dietro lo sterno che poi si riflette posteriormente in mezzo alle scapole, è molto suggestivo per un dolore esofageo. Sul concetto di distorto varrebbe la pena di fare due chiacchiere con i suoi medici o leggere il referto. Probabilmente come conseguenza della radioterapia ci sono stati dei fatti cicatriziali che hanno ristretto un pochino l'esofago, e mi viene da pensare, dalle poche notizie che ho, che quando passa il cibo quella zona di esofago sia un po' meno elastica e quindi distendendo le pareti provochi questo dolore. Professor Meroni, il nostro mal di stomaco continua, proviamo a tamponarlo e non riusciamo a venire a capo di questo problema. Conviene parlarne con il medico, che ci prescriverà, immagino, degli esami, dopo però averci visitato. Certo, questo è fondamentale, un buon rapporto col medico di medicina generale, il quale poi spesso chiede consiglio per essere sostenuto dallo specialista, mano sulla pancia, quindi esame obiettivo, un'anamnesi, cioè una raccolta della storia molto accurata per capire se ci sono situazioni di stress, se ha assunto farmaci recentemente, perché che so, ha avuto l'influenza e quindi certo, per una settimana ha preso farmaci antinfiammatori, e poi in base alla durata anche dei sintomi alcuni esami, alcuni molto banali per vedere se il paziente è anemico, indirettamente segno di sanguinamento, vedere il ferro com'è, se c'è una situazione di anemia. E poi in ultima analisi magari si arriva a quello che ha già fatto la signora Anita o che hanno già fatto altri nostri ascoltatori, cioè la gastroscopia, che oggi è un esame che ha sicuramente rimpiazzato metodiche radiologiche come la radiografia del tubo digerente, dà molte più informazioni soprattutto sullo stato della mucosa e permette di completare gli accertamenti con l'esecuzione di biopsie, cioè si prelevano dei piccoli frammenti di mucosa. E questo dà informazioni sul un tipo... Un esame antipatico ma necessario. In che casi, professor Meroni? Nei casi in cui il disturbo sia persistente o ci sia sospetto addirittura di situazioni acute, come per esempio un'ulcera, si accennava l'esofagite, ma questo ci porta un pochino fuori strada, perché veramente è un grande universo questo della gastrite e dell'esofagite. Però non indugerei a lungo con le autoterapie, con le terapie autoprescritte. Quando c'è il dubbio, una gastroscopia può essere veramente dirimente. Ricordiamoci che c'è anche un argomento che è stato cavallo di battaglia per molti anni, l'Helicobacter pylori, oramai non è più neanche una novità. Ci sono situazioni di gastrite o di ulcera che possono essere sostenute dall'Helicobacter. Allora in questo caso gli esami che il medico richiede cercheranno di fornire informazioni anche sulla presenza o meno di questo microorganismo. Dottor Marzorati, vengo da lei invece per capire un po' quali sono le indicazioni per una persona che somatizza allo stomaco, cioè tante persone somatizzano a livello delle spalle e sono un po', no, affaticate dal peso della vita, altre invece a livello dello stomaco. In questi casi, che cosa, dove ci si può rivolgere, che cosa si può fare? C'è qualche terapia che funziona più delle altre? Allora, innanzitutto vorrei precisare che se è un disturbo cronico, una somatizzazione gastrica ricorrente, una valutazione medica è sempre assolutamente necessaria. E quindi l'aspetto clinico è indispensabile. Dopodiché, se non è emerso qualcosa di significativo, si può anche pensare di fare un percorso che vada ad esplorare alcune aree del proprio mondo psicoemotivo. Per esempio quello legata al mondo della propria autonomia personale. Molte persone che soffrono di disturbi gastrici vivono con difficoltà la possibilità di rendersi autonomi. Sono persone magari che sono ancora molto dipendenti dalla famiglia o dal partner e pur desiderando un'affermazione completa è come se non si autorizzassero a farlo, no? Quindi un'esplorazione, per esempio psicoterapeutica, in questo ambito potrebbe essere d'aiuto, come anche una valutazione sulla stima di sé, un approfondimento dei livelli d'ansia e anche magari capire insieme se ci sono momenti di trasformazioni che la persona affronta con difficoltà. Mi scrive un ascoltatore di prendere i guantoni, il sacco da pugilato e scaricare le tensioni. Sicuramente l'attività sportiva, soprattutto se a volte contenuto aggressivo, è molto utile per scaricare la tensione, però perdiamo il senso di capire che cos'è questa tensione. Cioè, a noi interessa capire perché c'è questa aggressività, il senso di questo sintomo, no? Poi è vero che con l'attività noi lo allontaniamo un po', ma certo, poi torna se la situazione non viene affrontata. Professor Meroni, chiudiamo con 30 secondi, perché dobbiamo chiudere tra poco, alcune indicazioni per la dieta. Ci sono degli alimenti da eliminare oppure da ridurre? Ci sono sicuramente quegli alimenti che per loro natura irritano. Banalissimo pomodoro, il pomodoro contiene acido salicilico, quindi chi soffre di bruciori non ne trae giovamento. Se i disturbi sono legati al reflusso, cioccolato, menta, perché hanno una loro logica. Allora, è tempo di salutarci, io vi do appuntamento a domani, ringrazio il professor Meroni, il dottor Marzorati per essere stati con noi, qualunque dubbio essere benessere @radio24.it. A domani parleremo di influenzate, la canta e gliela suono, nuovi aggiornamenti, vi aspetto.